Ed ora subito passo la parola al professor Virgilio Melchiorre, ordinario di filosofia morale presso l'Università Cattolica di Milano, a noi tutti certo più noto nell'ambiente italiano e anche nell'ambiente del nostro istituto, che lo ha sentito vicino da molti anni, anche se forse è la prima volta che ufficialmente e pubblicamente abbiamo il piacere di averlo tra di noi. Ma ricordo ancora come molti anni fa uno dei nostri borsisti, per la sua, il dottor Zorzi, per il suo curriculum, appunto si mise sotto il patrocinio del professor Melchiorre, e ancora da allora dunque noi siamo spiritualmente affezionati. Devo esprimere doppiamente la riconoscenza e l'apprezzamento per questa sua presenza odierna, in quanto recenti vicissitudini di salute hanno reso anche dubbiosa la possibilità di essere tra noi in questa sera, e invece da un lato la grazia di Dio, di cui noi ci felicitiamo con lui, dall'altro la sua buona volontà, vero, hanno potuto realizzare questo progetto. A lui la parola. Grazie Monsignore per la sua gentilezza e per il suo invito. Ecco, io direi che anche il mio intervento potrebbe iniziare nello stesso modo in cui è iniziato l'intervento del professor Schilson. Guardini non è stato un filosofo nel senso stretto del termine, non ha voluto esserlo, ancor meno che non teologo di professione. E tuttavia sarebbe, certo credo, un errore non apprezzare, non considerare nella trama del discorso guardiniano una sua profonda ispirazione speculativa. Solo risalendo a questa ispirazione di fondo, a questo che tenterò di indicare come un rigore di fondo e di metodo nel pensiero di Guardini, solo in questo modo credo si possa comprendere anche quello che Guardini ha voluto essere come teologo, come uomo di chiesa, come soprattutto come uomo che pone una attenzione del tutto peculiare all'epoca e alla fine dell'epoca moderna. E credo che in questo senso anche il volume che questa sera festeggiamo in qualche modo può essere letto in questa prospettiva. Vedo che in diversi saggi, già nell'introduzione del dottor Zuccal, ma anche in altri saggi come quello della Gerl, per esempio, come quello della collega Manferdini, ancora più diffusamente, si sente il bisogno di risalire a quella che fu la prima opera, in senso speculativamente forte, di Guardini, quella Gegensatz, quella opposizione polare che dal 1925 in poi certamente ha costituito la trama di fondo, la trama metodologica di fondo dell'intero itinerario guardiniano. Anche questo suo atteggiamento nei riguardi della storia, nei riguardi di una Chiesa che va rinnovata ormai non più fissandola delle formule determinate e definitive, ma piuttosto libera nell'ascolto delle molteplici voci del tempo, anche questa sua attenzione storica io credo debba essere compresa in forza di una profonda intuizione originaria. Ma del resto proviamo in maniera sia pure brevissima a ripercorrere il modo in cui Guardini legge i grandi spiriti dell'Occidente. Poniamo Agostino, Pascal, Hölderlin, Dostoevskij, Rilke. Ebbene, ogni volta che Agostino cerca di tracciare il disegno della vita e dell'opera di questi filosofi, di questi poeti, sfugge sempre alla tentazione di determinarli in un senso soltanto. E anzi li rende vivi attraverso una segreta, facendo emergere una segreta opposizione all'interno del loro pensiero. E allora ecco che, ad esempio, la grandezza di Agostino si staglia attraverso la dialettica fra tempo ed eternità. L'attenzione profonda al senso temporale dell'uomo, alla finitudine temporale dell'uomo, e tuttavia questa attenzione che trova il suo senso solo nel rapporto antitetico all'eternità. Ecco Pascal che vive nella sua concentrazione sulla finitudine dell'uomo e che tuttavia comprende questa solo in funzione e in forza dell'infinito, e che vede l'uomo appunto come medio, come drammatica tensione fra finitudine e infinitudine. Ecco Hölderlin, con il suo sguardo alla abissale radicalità dell'essere, quell'Abgrund che non a caso farà di Hölderlin l'autore preferito di Heidegger, per esempio. E tuttavia, di nuovo l'attenzione di Hölderlin alla invenzione mitica della parola, ovvero a quel modo o quel tentativo incessante dell'uomo di tentare la parola che dice dell'indicibile, che dice appunto dell'abissale fondamento. Dunque di nuovo tensione polare, tensione dialettica fra l'abissale senso dell'essere e la capacità, incapacità di dirlo miticamente. Dostoevskij, con il suo senso della vertigine, con il suo senso della perdizione, ma ad un tempo, ecco l'altra opposizione polare sul piano dell'esistenza, con il suo costante richiamo alla verginità dell'innocenza del cuore. E così Rilke, ecco le splendide pagine in cui Guardini ripercorre, rivisita Rilke, poeta della morte, ma ad un tempo poeta delle piccole, delle delicate testimonianze della vita. Potremmo raccogliere queste molteplici opposizioni forse attorno ad una figura fondamentale, quella della notte e del giorno, quella della luce e dell'oscurità. Due aspetti dell'essere che appunto Guardini incessantemente si sforza di mostrare non come contrapposti, non come contraddittori, ma soltanto come contrari, che si fondono, si giustificano, si intersecano a vicenda. C'è un punto nel ritratto della malinconia in cui, stabilendo appunto la tensione polare fra oscurità e luce, Guardini dice che la oscurità non va intesa come la profondità negativa della tenebra, ma l'oscurità invece come struttura essenziale della luce stessa. Rileggendo questa pagina mi veniva di pensare, tornando alle origini del pensiero occidentale, a quello splendido frammento di Parmenide, in cui Parmenide dice degli uomini insani, degli uomini a due teste che si affannano a dividere la realtà, che si affannano a dividere il giorno dalla notte, e invece essi non sanno che notte e giorno, notte e luce, oscurità e luce sono una intimità profonda, sono la struttura stessa dell'essere. Ecco, alla radice della lettura guardiniana dunque c'è sempre questa attenzione alla polarità della vita, alla polarità di contrari che non sono come tali contraddittori, ma che sono soltanto i momenti polari che determinano l'essere della vita, l'essere dell'uomo, l'essere della natura. In questo senso, dicevo, occorre ritornare all'opera delle origini, la Gegensatz, l'opposizione polare, dove Guardini, attraverso una fine ricognizione fenomenologica, va stabilendo le fondazioni di questo suo metodo di lettura, o di quello che sarà poi il suo metodo di lettura della poesia, della teologia, della storia stessa. Ecco, dice ad esempio Guardini, consideriamo la realtà dal punto di vista fisico, ebbene non potremo fare a meno di lavorare continuamente con due categorie intrecciate fra di loro. Ogni realtà nel mondo fisico dovremo coniugarla nel senso della staticità, ma ad un tempo nel senso della dinamicità. Ogni realtà è in incessante dinamico divenire, e tuttavia il divenire della realtà non si potrebbe comprendere senza il permanere nel divenire stesso. Dunque diviene solo ciò che permane. Dunque staticità e dinamicità non sono contrapposizioni e contraddizioni dell'essere, ma sono infine due modi profondi e essenziali di costituzione dell'essere. Consideriamo la realtà sotto l'aspetto della forma. Ogni realtà ha una sua forma peculiare, ha un suo modo particolare d'essere. Ma, nota ancora Guardini, nessuna forma potrebbe manifestarsi nella sua distinzione, nella chiarezza della sua peculiarità, se non nella relazione all'intero che la determina come tale. Nessuna realtà è determinata se non a partire da ciò che appunto determina quella realtà. Consideriamo l'uomo nella sua presenza originale nel mondo, l'uomo che scopre, l'uomo che crea, l'uomo che inventa. Ma l'invenzione, la creazione, l'originalità di ogni persona umana non potrebbero essere se non sul filo e nella radice di una tradizione che anima questa invenzione, questa creazione. Dunque, in un senso o nell'altro, ci troviamo sempre a dover ripercorrere, a leggere la realtà coniugando le apparenti opposizioni, ovvero coniugando le polarità che compongono l'essere. Raccogliendo sotto solo due categorie questo discorso, si potrebbe dire che la realtà, in ogni suo momento, in ogni sua dimensione, deve in definitiva essere letta subspecie distinzionis, sotto l'aspetto della distinzione, della determinazione, ma ad un tempo sotto il profilo della affinità, della comunità, della relazione. E direi che questo è non soltanto importante per una lettura del fenomeno esistenziale dell'uomo, per una lettura della poesia e della storia dell'uomo. Certo, tutto questo è molto importante e mi si concede una parentesi, quasi in parallelo a questa enucleazione polare di Guardini, in Francia Emmanuel Mounier, fondatore del personalismo, diceva delle cose del tutto simili, probabilmente senza aver inteso Guardini. Non a caso alle origini dell'opera di Emmanuel Mounier c'è un piccolo scritto che porta appunto il titolo dei contrari e dei contraddittori. La contraddizione esclude i propri termini o fa dei due termini, che l'uno soltanto sia vero e l'altro sia falso, la contrarietà invece può sempre implicare una mediazione, può sempre implicare una cointeressenza. E dalla stessa radice nasceva appunto in terra di Francia questo atteggiamento ad una ricomprensione del tempo, della storia, senza dommatismi, senza rigori inutili, ma con una attenzione alla molteplicità delle voci, sì da ricostruire l'intero mosaico dell'esistenza e della storia. Dunque, non a caso, due tensioni di pensiero, due attenzioni ugualmente aperte che da luoghi diversi in qualche modo vanno costituendo, vanno inventando la nuova figura del pensatore, dell'intellettuale cristiano. Ecco, ma chiusa questa parentesi che mi sembrava pur doverosa, torniamo alla Gegensatz, torniamo all'opposizione polare. Dicevo che i suoi termini stanno in fondo nel saper coniugare incessantemente il senso della distinzione e il senso della affinità. Una notazione, un corollario importante in questa prospettiva da parte di Guardini porta a dire che a ben vedere mai o quasi mai una delle due polarità si trova sola. Anzi, laddove la storia dell'uomo ha tentato di buttarsi da un lato o dall'altro, nel senso della pura affinità o nel senso della distinzione, nel senso della pura temporalità o nel senso dell'eternità, nel senso della finitudine o nel senso dell'infinito, laddove l'uomo ha tentato di divaricare, di scegliere una sola delle due polarità, inesorabilmente anche l'altra è caduta, anche l'altra è morta. E di lì sono nati i dommatismi, di lì sono nate le perdizioni totalitarie, di lì sono nate tutte le alienazioni teoretiche e storiche dell'uomo. Dunque, distinzione e affinità. E nella linea del pensiero che lascia emergere in modo particolare il metodo della distinzione, necessariamente si edifica quella metodologia che è propria della scienza positiva. Scienza positiva che non può non lavorare se non tentando di definire, di determinare, di precisare. Ma tutto questo non consiste per, non rappresenta per Guardini se non una utilità provvisoria nel cammino dell'uomo verso la verità. Il cammino della determinazione e della precisazione non può che essere se non un momento che si iscrive in una ricerca estremamente più profonda, quella che lascia giocare nella riflessione dell'uomo appunto il tema della affinità, il tema della identità profonda dell'essere. Bene, tutto questo alla fine ha, direi, un rilievo decisivo, determinante per la tematica più propriamente teologica. Per la tematica teologica non solo nel senso della teologia positiva, ma anche nel senso della teologia speculativa. Il problema di Dio, il problema della riscoperta o della fondazione del discorso teologico e metafisico dell'uomo. E Guardini dice una cosa che può stupire, che può in qualche modo sorprendere chi è abituato ad un approccio teologico di tipo essenzialmente dimostrativo. Le prove di Dio come prove che cercano di arrivare alla fondazione o alla scoperta del fondamento attraverso una serie di deduzioni, attraverso una serie di passaggi più o meno rigorosi sul piano speculativo. Ebbene, Guardini dice: tutto questo è importante, ma tutto questo non potrebbe essere fatto se l'intero cammino dimostrativo non fosse guidato da una radicale intuizione del fondamento, da una radicale intuizione del divino. Beh, del resto, ma questo non possiamo farlo se non molto di passata, chi volesse ripercorrere le stesse prove di Tommaso, le stesse prove teologiche di Tommaso, dovrebbe alla fine scoprire che esse certo si muovono sul filo di un rigore dimostrativo che tuttavia però intanto trova la sua forza in quanto è animato da una, come dire, da una intuizione, da una evidenza originaria, quella del divino come tale. Non è vero, ogni realtà rinvia ad altra realtà, ogni realtà in movimento esige qualcosa che la muova, ma non posso andare all'infinito, no? Questa è la sostanza della prova di Tommaso. Ma perché non posso andare all'infinito? Perché se andassi all'infinito io non spiegherei nulla. E dunque alla base di tutto questo c'è già la presupposizione che vi è un senso, che vi è una radice di significato, che vi è una ultimità di valore che io devo cercare nella trama delle cose. Dunque, intuizione dell'essere, intuizione del fondamento e ad un tempo capacità di sottoporlo ad una riflessione dimostrativa. Ecco, dice Guardini, dal momento in cui l'uomo occidentale ha separato queste due prospettive, dal momento in cui ha voluto, per così dire, mettere fra parentesi la propria intuizione del divino, pretendendo di procedere solo per sillogismi e per dimostrazione, alla fine ha finito col perdere ciò che voleva dimostrare. Dunque, anche sul piano della fondazione teologica, di nuovo il metodo della polarità, il metodo della ricomprensione dei due poli dell'essere, torna ad essere estremamente fecondo ed importante. Ma come dicevo prima, e mi avvio alla fine, come dicevo prima, non si tratta soltanto di far valere questa radicale polarità sul piano della scienza speculativa, della scienza teologica, si tratta anche di porla alla radice della lettura della storia. Quando Guardini, alla fine dell'epoca moderna, passa, per così dire, in rassegna la storia dell'uomo e contrappone all'unità, alla totalizzazione dell'uomo medievale, la divaricazione dell'uomo moderno, che acquista il senso della sua proprietà, della sua creatività, che restituisce alla natura una sua autonomia, una sua singolarità, quando fa questa contrapposizione, in realtà non vaneggia un ritorno mitico al Medioevo, ma piuttosto, di nuovo, intravede un terzo tempo, quello nel quale il senso dell'unità medievale venga a coniugarsi arricchendosi della molteplicità delle prospettive che l'uomo della scienza moderna e contemporanea ha potuto costruire. Ma forse, infine, io credo si debba anche ravvisare in questa attenzione alla polarità dell'essere quella che Guardini ha disegnato come la segreta e profonda malinconia dell'uomo. Perché, ecco, mi pare che in definitiva qui si possa porre l'ultima lezione di Guardini, perché certo, è soltanto coniugando le opposte polarità che noi ci avviciniamo in qualche modo alla verità ultima delle cose. E tuttavia, ecco, siamo pur sempre costretti ad esprimerci o nel senso dell'identità o nel senso della diversità, o nel senso della distinzione, o nel senso dell'unità, o nel senso del finito, o nel senso dell'infinito. Le nostre parole devono in qualche modo a volta separarsi e dividersi, proprio perché all'uomo manca quella che Kant avrebbe chiamato l'intuizione intellettuale dell'essere. Manca all'uomo questa capacità di cogliere la radice, l'unità del molteplice. Ed ecco allora questo suo senso profondo della malinconia che così splendidamente Guardini disegna in quel piccolo capolavoro che è appunto il ritratto della malinconia. La malinconia come senso della finitudine che in se stessa avverte l'indicazione dell'infinito, ma ad un tempo la distanza di questa polarità radicale. Ecco, la malinconia come schwermut, come il peso dell'anima, come la fatica dell'anima, come quella fatica al fondo della quale nasce la nostalgia dell'essere, la nostalgia del divino che ci ricomprende, ma ad un tempo ci è infinitamente distante. La malinconia come nostalgia, cioè anche, per dirla alla tedesca, come Heimweh, come quel grido, quella passione per una patria che in qualche modo sta nella nostra profondità, ma che ad un tempo ci è sempre, pur sempre, distante. Ecco, direi che dunque, quantomeno sul piano metodologico, Guardini ha ancora da essere riascoltato dal pensiero contemporaneo, proprio per questa incessante e faticosa ricerca di un equilibrio che non lasci perdere nulla e che sappia coniugare le radicali costituzioni dell'essere e che in questa coniugazione trovi tuttavia l'umiltà profonda del senso sublime e profondo della malinconia, il richiamo dell'essere.